topic of our Dhamma talk this Saturday late afternoon is synopsis of the four establishments of mindfulness with a particular emphasis on mindfulness itself. Allora, l'argomento del discorso di questa sera è una sinopsi, si dice in italiano, una specie di riassunto sui quattro fondamenti della consapevolezza, con una particolare attenzione alla consapevolezza stessa. So, you know, what we shall try to do is to give you the very basic or the essential instructions as given by the Buddha in the Satipatthana Sutta, and then elaborate briefly on some of the main aspects, and then go on to discuss certain qualities of mindfulness. Quindi quello che faremo è illustrare un po' le indicazioni, le istruzioni, così come sono state date dal Buddha in questo Satipatthana Sutta, e poi anche analizzare i vari aspetti, e infine dare qualche informazione, insomma discutere un pochino di più rispetto alla consapevolezza, alle qualità della consapevolezza. So, in the Satipatthana Sutta of the Majjhima Nikaya, the middle length discourses of the Buddha, we find the following. What are the four? The four Satipatthanas. Here, a bhikkhu abides contemplating the body as a body, ardent, clearly comprehending, and mindful, having put away covetousness and grief for the world. Allora, cosa dice quindi il Satipatthana Sutta, che si trova nel Majjhima Nikaya, nei discorsi di media lunghezza del Buddha? Allora, inizialmente dice: quali sono i quattro fondamenti della consapevolezza? E la risposta è: qui dimora un monaco o un meditante, osservando il corpo nel corpo, ardente, comprendendo chiaramente e consapevole, avendo messo da parte ogni forma di dramma o di pena per il mondo. Then, the instructions go on. One abides contemplating feelings as feelings, ardent, clearly comprehending, and mindful, having put away covetousness and grief for the world. E poi il sutta prosegue dicendo: qui un meditante dimora osservando le sensazioni nelle sensazioni con ardore pienamente comprendendo e consapevole, avendo messo da parte ogni brama per le cose del mondo e ogni pena per le cose del mondo. Next, one abides contemplating the mind as mind, ardent, clearly comprehending, and mindful, having put away covetousness and grief for the world. Poi allo stesso modo il terzo fondamento, quindi il meditante o il monaco, dimora osservando la mente nella mente, con ardore, pienamente comprendendo e consapevole, avendo messo da parte ogni brama o pena o dolore per il mondo. Now, the last establishment of mindfulness is given as follows, namely, one abides contemplating the dhammas as dhammas, ardent, clearly comprehending and mindful, and certainly having put away covetousness and grief for the world. Allora, il quarto fondamento è il monaco che dimora osservando la mente nella mente, e poi tutto il resto ce lo ripete, non è necessario ripeterlo. Quindi ardente, pienamente consapevole. Now, when hearing these essential instructions for our mindfulness practice, there may be a number of questions that might come to your mind, certain things that you might not understand. First of all, the term bhikkhu is mentioned. Bhikkhu is a monastic, and it's a male monastic. So does this then mean that the Buddha excluded all the bhikkhunis and all of the lay meditators? Allora, nell'ascoltare queste istruzioni di base, così come sono state date dal Buddha nel Satipatthana Sutta, potrebbero sorgere delle domande o delle perplessità. Una può essere il termine bhikkhu, che io ho tradotto come meditante o monaco. In realtà è proprio un monastico di sesso maschile. Allora uno potrebbe chiedersi, allora sono escluse tutte le monache o i laici? And certainly, so in this regard, certainly the commentary to the Majjhima Nikaya explains that certainly the term bhikkhu is any person who earnestly endeavors to accomplish the practice of the teaching. Allora, nel commentario al Majjhima Nikaya si dice che con il termine bhikkhu si intende qualsiasi persona che sinceramente intraprende. To accomplish the practice of the teaching. Ecco, intraprende questa pratica degli insegnamenti, cioè mette in pratica gli insegnamenti con sincerità. And further, whoever undertakes that practice, whether a bhikkhu or a bhikkhuni or a lay meditator, here comes under the term bhikkhu. E quindi chiunque intraprenda questa pratica, che sia esso un monaco, una monaca o un laico, allora tutti questi sono compresi, diciamo, nella categoria dei bhikkhu. Now, in this synopsis of the Satipatthana Sutta, or synopsis of the instructions, we have the words, a meditator abides contemplating the body as body, as a body, etc. And so, what exactly is meant by contemplating? Allora, un'altra cosa è che quando noi sentiamo queste istruzioni, allora ci viene detto che appunto un meditante, un bhikkhu, contempla il corpo come corpo. Allora, cosa si intende per contemplare? Now, the Pali technical term here is anupassana, and anupassana is certainly your contemplation or repeated observation. Allora, qui il termine Pali è anupassana, e anupassana significa contemplazione o ripetuta osservazione. And certainly the meaning becomes even clearer when we look at certainly the Pali verb and its certainly English translation, namely anupassati, which means he, she, it repeatedly looks at something or observes closely. E il significato è ancora più chiaro vedendo il termine Pali, che è anupassati, che significa lui o lei osservano un oggetto da vicino ripetutamente, o guardano un oggetto ripetutamente. Now, the Visuddhimagga in its section 642 explains the term anu, the term anupassati as consisting of two parts, namely anu, which is your repeated activity, and pasati means to see. So one sees, one observes repeatedly. Allora, nel Visuddhimagga, nella sezione 642, allora viene spiegata un po' meglio l'etimologia di anupassati, e viene suddivisa la parola in due parti. Allora, anu ha il significato di ripetere, quindi ripetutamente, e passati di vedere, osservare. And certainly anu here still has a further meaning, namely as in diverse ways. So one observes an object of observation repeatedly and in diverse ways. Anu qui ha anche un altro significato, e cioè quello cioè significa in modi diversi. Quindi anupassati può voler dire osservare qualcosa ripetutamente e in modi diversi. Now, how does one observe an object in diverse modes? Well, such as in the modes of impermanence, of unsatisfactoriness, of the absence of a self. So in other words, anicca, dukkha and anatta. Come si osserva quindi un oggetto in maniera, in modi diversi? Beh, qui si intende osservarlo secondo le tre caratteristiche universali, cioè secondo il fatto che è impermanente, che è non soddisfacente e che è privo di un sé. In altre parole, anicca, dukkha e anatta. And so, to clarify one point here right away, it does not mean that we have to observe, or when we observe an object, that intentionally we have to look for its impermanent nature, that we intentionally we have to look for its unsatisfactory nature, or deliberately we look for the absence of a self. But rather, this happens quite naturally in the course of time. E quindi per chiarire questo aspetto, ciò non significa che noi dobbiamo intenzionalmente andare a cercare la natura impermanente di un oggetto, di un fenomeno, né andare a cercare deliberatamente la sua insoddisfacenza, diciamo così, e né la sua assenza di un sé, ma tutto questo sorge in maniera naturale nel corso del tempo. And then in the third treatise or chapter of the Patisamvita Magga, the path of discrimination, we find under contemplating in diverse ways, not just contemplating anicca, dukkha and anatta, but also one becomes dispassionate, and thus one does not take delight in formations. E nel Patisambhida Magga, il sentiero della discriminazione, viene spiegato ulteriormente cosa si intende per vedere le cose in modo diversificato o in diverso modo, e quindi si aggiunge che si crea un certo distacco rispetto all'oggetto osservato, al fenomeno osservato, cioè uno non gode più dell'oggetto che osserva. And furthermore, one sees formations as fading away, and or one sees the greed towards certain formations fading away, and thus one does not inflame the greed. E quindi uno riesce a vedere l'avidità nei confronti dell'oggetto che si dissolve, e quindi in qualche modo non viene alimentata questa avidità che si ha, questa brama verso l'oggetto. And one also sees the cessation of formations and not their arising. E inoltre uno vede la cessazione delle formazioni e non il loro sorgere. And then, furthermore, one relinquishes certain formations and does not grasp them. E inoltre uno lascia andare le formazioni e non cerca di afferrarle. And it is in this way, by seeing formations under different angles, that gradually we see their shortcomings, and thus we manage, or the mind manages, to let go of them. Ed è proprio osservando questi diversi aspetti delle formazioni che noi vediamo i loro limiti, i loro svantaggi, e quindi la mente le lascia andare. Now, when you think of the passage read out earlier on, namely the synopsis of the mindfulness, the instructions on mindfulness, then it says there to contemplate the body as a body, or sometimes the translation is as to contemplate the body in the body, feelings in feelings, etc. And there's a certain meaning that wants to be carried with this. Allora, nel riflettere su ciò che abbiamo letto prima, che è il riassunto, la forma concisa delle istruzioni, allora si legge che occorre osservare il corpo come corpo, o il corpo nel corpo, io forse ho tradotto nel corpo, e il fatto che si utilizzino queste, cioè che venga detto in questo modo, ha un suo significato, ha un suo senso. Now, the explanation given here is to make it clear that a meditator, when observing some bodily formation, should pay attention to the bodily aspects of that object, and not the feeling, the prevalent feeling at the time, or predominant mental state or some dhamma aspect. Allora, qui si intende, la spiegazione è che quando si osserva un oggetto fisico, per esempio, lo si deve osservare sotto l'aspetto fisico, e quindi, o del corpo, diciamo, e quindi non secondo la sensazione che può accompagnare il sorgere dell'oggetto, né lo stato mentale, né l'aspetto che riguarda i dhamma. So this is intended to then help see things clearly and to be less confused about certain objects. E quindi questo serve clearly separate them. Per essere per vedere più chiaramente gli oggetti, non essere confusi, no, tra un oggetto e l'altro, ed essere in grado di separarli uno dall'altro. And a second aspect here for this reflexive character in the instructions is that when observing the or contemplating the body in the body, then this is not meant to contemplate one's body as being a man, as being a woman, or as self, or anything like this. Un altro aspetto di questa analisi che stiamo facendo è che si può intendere, osservare il corpo come corpo, che si osserva il corpo di per sé e non come un corpo maschile o un corpo femminile o oppure un corpo come un sé. No. For instance, when we observe the rising, falling movement of the abdomen, then we contemplate it or observe it simply as rising and falling, and not as a person or self who is breathing. Per esempio, quando osserviamo l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome, lo osserviamo come fenomeno di per sé e non come una persona o un sé che sta attivando quel fenomeno. And again, when we contemplate feelings as simply feelings, then we don't see those as episodes in a long biography. Allo stesso modo, quando osserviamo le sensazioni nelle sensazioni, evitiamo di guardarle come una parte all'interno di una biografia, ad esempio di una storia. And when we contemplate states of mind as simply states of mind, then we do not relate to them as scenes in a personal drama. E quindi quando osserviamo gli stati mentali come semplici stati mentali, di nuovo non li vediamo come delle scene in una recita personale, diciamo, drama, come un film, diciamo, personale. Or an opera. O come un'opera personale. And so, un'opera teatrale, diciamo. Right. Uno spettacolo. Ecco. And then when contemplating dhammas as certain mere dhammas, then we do not relate certain to these as personal achievements or liabilities. E quando osserviamo i dhamma come dhamma, questi non li consideriamo come dei propri successi o dei propri raggiungimenti, cose ottenute o raggiunte. Now, part of the instructions is certainly that certainly we contemplate the body as a body, ardent, and then clearly comprehending and mindful. So the word ardent is certainly being used certainly here, and it carries a lot of meaning. Allora si dice di osservare appunto il corpo, le sensazioni e i quattro fondamenti con ardore, no? Quindi ardente, pienamente comprendente e consapevole. Allora questo aggettivo ardente, che in italiano forse non si dice tanto, con ardore diciamo, ha anche questo un significato particolare. Yeah, and certainly so, here, ata, putna, ata, bi, then, means possessing energy, and so in the sense of intent, atapa is in the sense of burning up and consuming the mental defilements. Allora qui la parola pali è atapi, e questo significa una cosa che brucia, possessing energy, che possiede energia, ed è un'energia che brucia, e quindi si intende il bruciare i difetti mentali. Now, the Buddha described ascetic practice or ardent practice not as a form of tormenting one's own body, but rather as a mental exercise of keeping the mind free from mental defilements. Il Buddha ha descritto le pratiche ascetiche, diciamo, o questa pratica ardente, non come una pratica per infliggersi dei tormenti rispetto al corpo, per auto-infliggersi delle cose, ma piuttosto come un esercizio mentale per liberarsi dai difetti mentali. And certainly this is seen as the highest form of exertion. E questo è vista come la forma più alta di sforzo. Now, as for the term clearly comprehending, the Pali for this is sampajano. This has a number of very specific meanings. Per quanto riguarda invece il comprendere chiaramente, la parola Pali è sampajano, e questo anche ha dei significati diversi. So clearly comprehending means to discern rightly, entirely and certainly equally. Quindi significa comprendere nel modo giusto, nel modo completo e in un modo equo. And certainly this certain term, sampajanya, namely clear comprehension, has been defined for instance by I.B. Horner, a Pali scholar, as acting in a clearly conscious way. Quindi sampajani è stato descritto da uno studioso di Pali, Horner, come l'agire acting in a clearly conscious way. Cioè agire in un modo pienamente cosciente. And certainly the Venerable Sayadaw Pandita, Bhimans of Burma, of Myanmar, is more or less following this certain definition. He says one should act consciously with full knowledge of what one is doing. Il Venerabile Upandita è d'accordo con questa definizione, e lui aggiunge che una persona deve agire in maniera cosciente e pienamente comprendendo ciò che sta facendo. And certainly so this clear comprehension is a form of initial wisdom, however it does not yet qualify as one of the insight knowledges. Quindi è una forma, questa di della chiara comprensione, è una forma iniziale di saggezza, anche se ancora non la si può considerare come una degli insights. And certainly Venerable Analayo, a Buddhist monastic and certainly scholar, contemporary scholar, he says that certainly this clear comprehension well, describes the ability to fully grasp or comprehend what is taking place. E il venerabile Analaya, un monaco studioso contemporaneo del buddismo, descrive questa chiara comprensione come, adesso mi sono perso il pezzo più importante, fully grasp or comprehend what is taking place. Quindi pienamente comprendere pienamente, afferrare pienamente ciò che sta avvenendo. So with this then, we can say that mindfulness is clearly the most important factor when it comes to the observation of the predominant objects. However, this mindfulness will have to be accompanied by other factors such as ardent energy, atapa, and certainly clear comprehension. Allora, possiamo sicuramente dire che la consapevolezza è il fattore più importante quando osserviamo questi fenomeni, però la consapevolezza da sola non basta, va accompagnata da questi altri fattori, cioè l'energia ardente, diciamo, e la chiara comprensione. And so, when we observe predominant objects, whether they are to our liking or not, we should ideally do so without covetousness and grief for the world, which means without sensual desire and without ill will. Quando osserviamo questi oggetti predominanti, allora dovremmo farlo con una mente che sia priva di avidità o di brama nei confronti dell'oggetto, o privi di questo dolore o pena. E con questo si intende l'assenza di desideri sensoriali e l'assenza di malevolenza. And certainly the usual story is that certainly when we observe some object, then we do so with a lot of reactivity, either liking the object or disliking the object. And so with this the mind is not really balanced. Di solito quando osserviamo un oggetto noi lo facciamo o volendo ottenere, desiderando l'oggetto, oppure con avversione, non volendolo, e questo ovviamente non corrisponde ad una mente equilibrata. Now, when some, let's say, predominant bodily formation arises, then and you don't quite know what to do with it, and then remember this synopsis, passage from the Satipatthana Sutta, and try to contemplate it ardently, and contemplate the physical sensation as a physical sensation, do so ardently and clearly comprehending, and with mindfulness, and a mind that is free of covetousness and grief for the world. Allora, quando quindi sorge un oggetto predominante nel fisico, quindi un oggetto fisico, cercate di tenere a mente queste istruzioni date in maniera così concisa del Satipatthana Sutta, e cioè cercate di osservare l'oggetto fisico che sorge, intanto notare che è sorto l'oggetto, e poi guardarlo in modo ardente, quindi con questa energia, con la chiara comprensione, cercando di comprenderlo pienamente e con consapevolezza. Inoltre cercate di mantenere una mente assente dalla brama e dall'avversione. And then when some feeling becomes the next predominant object, then take the feeling and certainly then try to be mindful of it, and apply what has been or what is given in this synopsis passage. allo stesso modo, quando sorge una sensazione, allora cercate di esserne consapevoli e anche lì applicare le istruzioni così come sono state date in questa sinopsi. And so, you know, the same thing, you know, then also goes, you know, for observing some mental object, like a mental, you know, state, and so, you know, also for, you know, dhammas. E questo vale anche per un oggetto mentale, per esempio uno stato mentale, e per i dhamma. And by dhamma, to clarify this, you know, right away, is meant in the words of the Buddha himself, groups of teachings such as the five hindrances, and then contemplating the five aggregates, the six sense spheres, and so on. E per chiarire cosa si intende per Dhamma, così come l'ha spiegato il Buddha, questi sono i gruppi di fattori, diciamo, che rientrano negli insegnamenti. Quindi, per esempio, i cinque ostacoli, i cinque kanda aggregati, le sei basi dei sensi e così via. Yeah. Mm-hmm. And so, among the important terms from this synopsis passage, there's one term that we haven't explained yet, and this is mindfulness. And this is what we're going to do next. Allora, nella nostra analisi di questa sinopsi c'è ancora un termine che non abbiamo spiegato ed è la consapevolezza, ed è ciò che faremo adesso. Now, in cooking there is one ingredient that is useful everywhere, in almost every dish. And what is this ingredient? There you go, salt. Oh, really? Yes. Allora, nella cucina c'è un ingrediente che va bene però dappertutto. E io Likewise, ho detto il sale, e ho detto giusto il sale. Likewise, mindfulness, the Buddha says, is helpful everywhere. Allo stesso modo, il Buddha dice, la consapevolezza è utile ovunque. So this mindfulness is certainly helpful not only during our intensive practice and dealing with all sorts of objects that come up, but also outside of intensive retreat. E quindi questa consapevolezza è utile non solo nella pratica intensiva per affrontare qualunque cosa che dovesse sorgere, ma anche fuori da un ritiro, in una pratica intensiva. Now, the amazing thing is that the term satipatthana until now has been discussions have been there, scholarly discussions of how to interpret it properly, and different interpretations exist. Allora, riguardo al termine satipatthana, ci sono state molte discussioni tra studiosi riguardo al modo giusto per interpretarlo. And some of you may have heard the term satipatthana being translated as foundation of mindfulness. Molti di voi hanno sentito la traduzione di questo termine satipatthana come i fondamenti della consapevolezza. Or you might have heard of the translation as establishment of mindfulness. Oppure un'altra traduzione è lo stabilizzarsi della consapevolezza. Or as Professor Rice Davids and Venerable Analayo are proposing, as presence of mindfulness. Presence of mind. Oppure presenza mentale, come hanno suggerito Analayo e Rice Davids, un altro professore. Yes, right. And so, in the Bahasa tradition, the preferred interpretation of the term satipatthana is as close, firm, and steadfast establishment of mindfulness on the respective object of observation. Quindi nella tradizione Mahasi la definizione che si preferisce usare per questo termine satipatthana è una close firm, firm steadfast. Allora, una ravvicinata, ferma e solida. Establishment of mindfulness. Stabilizzazione della consapevolezza on the object of observation. Sull'oggetto da osservare. No. I could go into the details of this term satipatthana, but will not do so simply for time reasons. Potrei entrare nei dettagli di questa parola satipatthana, delle varie interpretazioni, ma non lo farò perché per questione di tempo. And rather let us focus on the qualities that mindfulness ideally should possess. Piuttosto focalizziamoci sui le qualità che idealmente questo la consapevolezza dovrebbe possedere. And the synonyms for it could be as attentiveness to the present, or as awareness, or as wakefulness, or as observing power. Allora, alcuni sinonimi potrebbero essere attenzione al presente, oppure consapevolezza, o potere di osservazione, or observing power. I said maybe it's the one. Wakefulness. Oppure l'essere vigili, essere svegli. Vigili. Now, even though mindfulness is just one in nature, in the context of the Satipatthana Sutta, it is certainly being further divided as a mindful contemplation of bodily formations, of feelings, of the mind, and of dhammas. Quindi anche se la consapevolezza è unica come sua natura, però nel Satipatthana Sutta viene suddivisa in quattro parti. Quindi c'è la consapevolezza dei fenomeni fisici, delle sensazioni, della mente e dei dhamma. And certainly so the division here is only by way of the categories of objects. E quindi questa suddivisione è si basa sul criterio degli oggetti. But the essence certainly remains certainly the same. Ma l'essenza rimane la stessa. Now, when you ask an ordinary person what mindfulness is all about, then the person might not necessarily come up with a clear-cut answer. Se chiedete a una persona ordinaria cosa si intende per consapevolezza, la persona potrebbe non rispondervi, non darvi una risposta chiara, non essere in grado di darvi una risposta chiara. Now, in the context of Buddhist meditation practice, mindfulness is being explained in the following ways and being attributed the following qualities. Quindi nell'ambito della pratica buddista la consapevolezza viene definita secondo queste le seguenti qualità, i seguenti attributi. So the classical definition for mindfulness is given as possessing the characteristic of not floating. The observing mind is not floating over the surface of the object. Quindi la definizione classica è quella dell'abilità della mente di non allontanarsi dall'oggetto, cioè di non scivolare sulla superficie dell'oggetto, non scivolare via dall'oggetto. But rather, mindfulness has this quality of sinking into the object of observation, and thus getting to, and as a result of this, a meditator then gets to know its different qualities. Ma piuttosto la mente è, o la consapevolezza è quella qualità della mente di entrare in un oggetto, affondare praticamente affondarsi in un oggetto e così facendo di capire le qualità di quell'oggetto. Now, one practical aspect in this certain connection, when meditators have observed the rising and falling movement of the abdomen or some other object already many times, they may say, tell the teacher, I know everything about the object, there's pressure, hardness, this and that, it's always the same story. Allora, un aspetto pratico di questo è che spesso quando un meditante osserva per molte volte o l'addome o qualche altra sensazione fisica o altri oggetti, potrebbe poi riferire all'insegnante: beh, io so già tutto di questo oggetto perché l'ho già visto tante volte, cioè durezza, tensione, eccetera, eccetera. And it is in this kind of a situation that one needs to remember the characteristic of mindfulness and go deeper into the object. Ed è proprio in questa situazione che uno dovrebbe ricordarsi la caratteristica della consapevolezza e andare sempre più in profondità nell'oggetto. And when you actually go deeper into the object, then you will discover new qualities. Quindi entrando più in profondità nell'oggetto si scopriranno nuove qualità. And this is something like looking at some object, material object, first with a physical eye, and so one just sees the surface of the object, just the gross characteristics of the object or qualities of the object, and then when you put that same object under a microscope, and let's say even an atomic microscope, you're going to see so many more details. È un po' come osservare un oggetto attraverso l'occhio fisico, allora si vedono alcune caratteristiche così molto superficiali e grossolane, ma quando quello stesso oggetto lo si mette sotto un microscopio, addirittura un microscopio atomico, allora uno scoprirà molti più dettagli, andrà molto più in profondità nella conoscenza di quell'oggetto. No. The function classically of mindfulness is given as the absence of confusion or non-forgetfulness. La funzione della consapevolezza è data come definizione classica nella caratteristica della non confusione, anzi scusate, non la caratteristica, la funzione della non confusione o del non dimenticarsi. And so when an object has arisen and is certain and predominant, then you keep it in sight and you don't lose certain track of it. Quindi quando un oggetto sorge, diventa predominante, uno lo tiene d'occhio e non lo perde di vista. And from a practical point of view, let's say you observe some object and then you don't allow your mind to drift off, you forget your original object and you start thinking about something else. E quindi si intende che quando sorge questo oggetto non si permette alla mente di allontanarsi o nei pensieri o in altre cose. No, there are two manifestations classically attributed to mindfulness, so two ways of experiencing it, and the first one is given as a state of confrontation, literally a state of being face to face with the objective field. Quindi ci sono invece due manifestazioni, cioè due modi diversi per fare esperienza di questa consapevolezza, questo fattore. Uno è quello di confrontarsi con l'oggetto, o meglio di trovarsi faccia a faccia con l'oggetto. And the second manifestation of mindfulness is as protection or guardianship. La seconda manifestazione è quella di protezione, quindi si manifesta come protezione o come ciò che fa da guardia. And this means that when our mindfulness is really continuous from moment to moment to moment, then we notice a certain purity of the mind, and this purity is the result of the mind being protected against the attack by mental defilements. Questo significa che quando si riesce a sviluppare una consapevolezza continua, attimo dopo attimo, si noterà una certa purezza della mente. E questa purezza deriva dal fatto che è protetta dagli inquinanti, dall'attacco dei difetti mentali. No. This is certainly explained from a theoretical point of view, and certainly it's always certainly good, you know, to know, you know, one or, you know, the other practical implication. Now, when we, you know, meditate, and also when we, you know, go through life, all sorts of wholesome or unwholesome mental states might arise. Allora, fin qua abbiamo visto un po' la parte teorica, però è sempre meglio vedere, sempre utile vedere anche le implicazioni pratiche. Quindi quando stiamo meditando, ma anche nella nostra vita quotidiana, potremmo sempre trovarci a dover affrontare il sorgere di stati mentali salutari e non salutari. So, let us say see some object, and then some fear arises in the stream of consciousness, and then that fear gets stronger and stronger, and it develops a momentum of its own. Immaginiamo di vedere sorgere un oggetto, e questo provoca una paura nel flusso della coscienza. Allora questa paura diventa sempre più forte, e poi è come se assumesse una energia sua propria. And so in a situation like this, you might not know what to do anymore. Mindfulness doesn't seem to be working, and certainly then what else is certainly left? And certainly so the thing to do is to keep in mind the continuity of your mindfulness. And if then you really make it a point to be mindful from microsecond to microsecond to microsecond, then very soon that fear will no longer have a chance to continue to arise in the stream of consciousness. Allora, come affrontare questa situazione? Può darsi che la consapevolezza in quel momento non sia sufficiente per aiutarci. Allora, nel fare uno sforzo di sviluppare questa consapevolezza continua, un microsecondo dopo un microsecondo, in questo modo possiamo far sì che questa paura non sorga in un altro momento, o comunque riusciamo ad affrontare la paura che sorge in relazione all'oggetto. And so, the same thing then applies to any other predominant unwholesome mental state. So let's say you're overcome by some extreme worries, you worry about something that might happen in the future, but it's not sure yet, and you know that the worries are not helping you in any way, but you don't know what to do. Then remember to be continuously mindful, and your mind will be protected. Questo vale per qualsiasi stato mentale non salutare che possa sorgere. Prendiamo per esempio la preoccupazione. Uno potrebbe essere preoccupato per qualcosa che può accadere nel futuro, ma che ovviamente non è sicuro che accada. Allora uno potrebbe essere completamente preso da questo forte stato mentale. E, cosa fare in questa situazione? Di nuovo il suggerimento è quello di ricordarsi di essere consapevoli attimo dopo attimo, di costruire questa consapevolezza continua, e in questo modo la mente sarà protetta da questi stati mentali negativi. Then, in terms of the nearest causes for the arising of mindfulness, the text certainly cites a strong perception of the respective object, and certainly as the first nearest cause, and certainly the second nearest cause is simply the four establishments of mindfulness. So mindfulness causing a series of moments of mindfulness causing ever stronger mindfulness to arise. Quanto riguarda le cause prossime della consapevolezza, i testi ne indicano due. Una è la percezione del sorgere dell'oggetto, la chiara percezione del sorgere dell'oggetto. La seconda è la consapevolezza stessa, cioè i quattro fondamenti della consapevolezza, e attraverso lo sviluppo della consapevolezza che viene, come dire, causata la successiva consapevolezza. Avete capito? Si autoalimenta praticamente. No. No, when it comes to our mindfulness, then we don't want a mindfulness that is sluggish and lagging behind, but rather a type of mindfulness that is really with what's going on. So immediacy is the key word here. Allora, quando sviluppiamo questa consapevolezza, non vogliamo un tipo di consapevolezza che si trascina o che avanza pigramente, ma ne vogliamo una che sia lì sul momento con quello che sta accadendo. Quindi l'immediatezza qui è la parola chiave. So as soon as the next predominant object arises, our mindfulness, our observing mind will go and observe the object. Quindi appena sorge un nuovo oggetto predominante, la nostra mente osservante è subito lì pronta a cogliere quell'oggetto che sorge. Now, the practical implication here is that oftentimes beginning meditators will experience the following. Some predominant object arises, and then the meditator starts thinking about this object. Oh, why does this object arise? And I've experienced something similar to this some time ago, etc. By the time our mindfulness is turning towards the object may all be already be on its way to dissolution. Per quanto riguarda le implicazioni pratiche di questo punto, allora può succedere, soprattutto ai meditanti principianti, che sorga un oggetto e il meditante comincia a pensare a questo oggetto. Ah, ma cos'è che l'ha causato? Ah, io ho già provato una cosa simile precedentemente. Allora, nel tempo in cui che passa nel pensare in questo modo, quando la mente finalmente arriva sull'oggetto, l'oggetto è già andato via. And certainly in this certain context, well, the time factor also plays an important role. And among the objects, we have objects related to the future, we have objects related to the present moment, and objects related to the past. And the objects related to the future have not arisen yet, and as a result of this, they are not certain. The objects of the past have gone by already, and so all we have is just a memory of those, and so those are not certain either. And so what we can rely upon are only the presently arising objects. Per quanto riguarda gli oggetti che sorgono, solitamente sono divisi in tre categorie, il fattore tempo è anche un fattore molto importante a questo riguardo. Allora, i fattori di solito vengono suddivisi in tre categorie, i fattori del presente, passato e futuro. Gli oggetti del futuro non sono ancora sorti e quindi non hanno nulla di certo. Gli oggetti del passato sono già andati, sono già passati, quello che rimane è solo un ricordo di quello passato e quindi anche questi non sono certi. Gli unici oggetti certi sono quelli che sorgono nel presente. No, apart from immediacy, the concurrence of our mindfulness with the arising object is also important. Un'altra cosa molto importante è anche la simultaneità dell'oggetto che sorge e della mente che osserva l'oggetto. So you want to be with what is happening while it is happening and not after something has happened. Perché uno deve stare con ciò che accade nel momento in cui sta accadendo e non successivamente. Now, the Vinayasaya Upanita, Vivams of Burma, based on the commentary to the relevant discourses, points out that our mindfulness should not be just an ordinary mindfulness, but should be extraordinary mindfulness. Il venerabile Upandita sottolinea, sulla base dei commentari dei vari testi, che la nostra consapevolezza non dovrebbe essere una consapevolezza ordinaria, ma una consapevolezza straordinaria. Mm. And certainly then, yet another quality of mindfulness is that when an object arises, without hesitating, the observing mind should rush towards the object of observation. Un'altra qualità della consapevolezza è che quando sorge un oggetto, la mente dovrebbe affrettarsi a raggiungere l'oggetto, praticamente, arrivarci immediatamente. Senza esitazione. Now, catching an eel is considered to be extremely difficult. Catching some objects, physical or mental objects, may be equally difficult. E quindi catturare un'anguilla pare che sia un'impresa molto difficile. E anche catturare un oggetto fisico mentale pare che abbia la stessa difficoltà. So just like an eel is very slippery by nature, so too some objects tend to be rather slippery, and because of this our mindfulness should firmly grasp or seize the respective object of observation. E così come l'anguilla è molto scivolosa, a volte anche gli oggetti fisici e mentali possono essere scivolosi, di cui la necessità della mente di afferrare in maniera molto decisa l'oggetto che sta osservando. Again, another aspect. When we observe the rising and falling movement of the abdomen or any other predominant object, then we want to observe the entire object from its start until its ending. And so in the case of the rising movement of the abdomen, it means that we want to be with the rising movement as it is starting, we want to be with it as it is happening during the middle, and so also we want to be with it during its ending portion. Un'altra cosa importante è che vogliamo stare con l'oggetto nella sua interezza per tutto il tempo in cui si manifesta, e quindi sia per quanto riguarda l'addome che per altri oggetti fisici. Prendiamo per esempio l'alzarsi dell'addome, allora l'idea è quella di osservare attentamente sia l'inizio del processo che la parte in mezzo che la fine del processo dell'alzarsi. And certainly this particular aspect is certainly important, especially later on. It's important at the beginning, but it's also important later on when our mind becomes very sharp, and certainly then we can see many more details in one object. Questo fatto è molto importante, soprattutto quando la mente diventa molto raffinata, molto acuta, e riusciamo a vedere molti più dettagli in un oggetto. No, the great importance of unbroken continuity of mindfulness has been explained already a few times during the past talks, so I will not go into this again. Quindi l'importanza di questa continuità è questa, la continuità della consapevolezza, il fatto di non interromperla, ma è stata già spiegata varie volte nei discorsi precedenti, quindi non mi soffermerò su questo. And so, as a reminder to all of you, when observing some predominant object, be it the rising falling of the abdomen or maybe some pain or whatnot, then try to do so, not manipulating the object. Don't make it happen in a certain way that you think it should be happening, but rather observe the object as it is happening naturally. Quando un meditante osserva il sorgere di un oggetto, che sia l'addome o un dolore o un qualsiasi altro oggetto, dovrebbe cercare di non manipolare l'oggetto, cioè di farlo sorgere naturalmente, cioè di osservare l'oggetto così come sorge naturalmente e non come uno vorrebbe che fosse. No. Further qualities of mindfulness have been cited in various passages in the text, and one of them is when we observe an object, we should do so in a calm and detached manner. Altre qualità della consapevolezza sono state citate in altri testi, e una è questa, che quando osserviamo un oggetto dovremmo farlo in maniera calma e distaccata. So when some new object arises, then we don't get totally excited about it. Per esempio, quando sorge un nuovo oggetto, allora non ci emozioniamo per questo. Or when some difficult object arises, then again we observe it in calm and detached manner, without let's say starting to worry about the object. When the object is difficult. Invece quando l'oggetto è difficile, lo osserviamo appunto con questo atteggiamento un po' distaccato e non entriamo in uno stato di preoccupazione per quell'oggetto. Now, what else is important? When we observe objects then with mindfulness, then we try to do so without having a goal in mind. Quando osserviamo gli oggetti con consapevolezza, cerchiamo di farlo senza avere in mente una meta o un obiettivo da raggiungere. So we don't keep thinking about Nibbana all the time. Am I getting closer to Nibbana now? And so, how much is left? How many days are left? Etc. But rather we just observe the object as it happens. Quindi quando osserviamo un oggetto non cominciamo a pensare al Nibbana, quando raggiungerò il Nibbana, quanti giorni mancano, mi sto avvicinando al Nibbana. No, uno osserva l'oggetto così come si presenta e basta. Now, in the Itiwutaka, section 33, with regards to, especially with regard to mental states, and difficult mental states, the Buddha clarifies. And he speaks of the first stage of observation. So first we just observe, and then if a mental state becomes somewhere that gets out of our control, out of hand, then the second stage is of taking action. Allora, il Buddha nel Itivutaka, nella sezione 33, dice, da queste istruzioni riguardo agli stati mentali difficili. Allora dice che bisogna andare per stadi, quindi un primo stadio, una prima fase è quella dell'osservazione, e solo successivamente uno può prendere azione, cioè può attivarsi. No. When observing some predominant object, we try to do so without any concepts in mind. So it's a non-conceptual type of awareness that is needed. Può essere un tipo di consapevolezza non concettuale, cioè quando osserviamo un oggetto bisogna cercare di farlo senza avere dei concetti nella mente. One meditator has related that reminding herself in the following way has helped a lot. Namely, what is happening with regard to the predominant object now, what is happening now, what is happening now, and now, and now. And if you keep doing this for an entire sitting, I can promise you, your practice is going to be very strong. Una meditante ha riferito una specie di una sua strategia durante l'osservazione degli oggetti che sorgevano. Allora lei chiedeva a se stessa: adesso cosa sta succedendo? E adesso, e adesso, e adesso, per ogni attimo, insomma, della seduta. Il venerabile diceva: vi assicuro che se riusciste a farlo per tutta una seduta, if you do it for the whole sitting, you say. But then your practice becomes very strong. La vostra pratica diventerà molto forte. Now, outside of an intensive meditation retreat, we experience. Let's say we go outside. It's a sunny day, and we walk around, and then some joy arises, and based on the joy, we might feel like whistling or singing. Allora immaginiamo fuori da un ritiro, fuori dalla pratica intensiva, andate a fare una passeggiata, c'è un bel sole e sorge della gioia e di conseguenza vi viene voglia di fischiare o di cantare. So we act out what we experience in the mind. E quindi è come se noi agissimo, mettessimo in atto quello che noi sperimentiamo nella mente. Or we receive a telephone call and we hear that one of our dearest friends is seriously sick. And immediately sadness arises in the mind, and sadness, worries, etc. And we might end up shedding some tears. Oppure se riceviamo una telefonata, qualcuno ci dice che un nostro amico è molto malato, allora questo di conseguenza provoca tristezza e preoccupazione e potremmo anche versare qualche lacrima. So, again, we're acting out what is happening in the mind. E di nuovo noi stiamo in qualche modo mettendo in atto ciò che avviene nella mente. Now, in the mindfulness practice, whenever joy arises, please don't start dancing or singing. Nella pratica, in una pratica intensiva, durante la meditazione, se dovesse sorgere la gioia, vi prego di non mettervi a cantare. Or, in our grandmother's generation, when anger arose in the mind, the model was don't show it. No, don't show it, suppress it. And this too does not apply to meditators, but rather observe it. La generazione dei nostri nonni si era soliti reprimere la rabbia quando sorgeva, cioè non farla vedere. Anche questo non va bene durante la meditazione. Nella meditazione si osserva la rabbia che sorge. So in other words, try not to suppress anything, and there's no need to act out on any particular mental state, just observe objects in a detached and uninvolved manner. Quindi in altre parole non c'è bisogno di agire, cioè in meditazione non si agisce su uno stato mentale, per esempio, né lo si reprime, ma semplicemente lo si osserva in una maniera distaccata. And certainly the Venerable Sadhu Pandita adds to a better understanding of mindfulness by saying that mindfulness can serve both as a prevention of, let's say, some unwholesome mental states, and it can also serve as a cure if already some unwholesome mental states have arisen. E il venerabile Upandita aggiungeva queste cose rispetto alla qualità della consapevolezza, che può essere vista come una prevenzione riguardo agli stati mentali non salutari che possono sorgere, o anche come una cura per gli stati mentali che sono già sorti. Now, briefly, at near the end, some years back, some scientific research was done on mindfulness. What is mindfulness? How do people understand mindfulness? And certainly, 5 points were found to be influential. The first one, a non-reactivity towards certain inner experiences, being the first. Allora, un po' di tempo fa hanno fatto una ricerca scientifica su cosa si intendeva però, o su che cos'era, qual era la natura della consapevolezza, e sono stati individuati 5 punti. Il primo di questi è la non reattività rispetto a ciò che accade nell'esperienza. And then secondly, simply just to observe or to notice or to be present of physical sensations, of thoughts and feelings, irrespective of the fact that those objects may be pleasant or unpleasant. Il secondo punto era essere semplicemente presenti o consapevoli degli oggetti che sorgevano, sia nel corpo che nella mente, i pensieri, le sensazioni, quello che fossero, e rimanerne praticamente imperturbati, che essi fossero piacevoli o spiacevoli. And certainly then thirdly, to do things in a conscious manner, or to observe things in a conscious manner. Il terzo punto era fare o osservare le cose in una maniera cosciente. Rather than acting in an automatic manner. Piuttosto che reagire in un modo automatico. Now, interesting is the fourth point, that's describing one's experiences with words is part of mindfulness. Il quarto punto riguarda il fatto che fa parte della consapevolezza anche la capacità di esprimere in parole ciò che si sta sperimentando, si sta provando. And sometimes meditators are of the opinion that one should just sit there and just look, and there's no descriptive part to it. It's not so. Alcuni meditanti pensano che sia sufficiente sedersi e osservare e che non ci sia una parte descrittiva dell'esperienza, ma non è così. Well, the amazing thing about the mind is that it can observe and also handle and the descriptive part of the observation. La cosa interessante, incredibile della mente è che può osservare, ma poi può anche occuparsi della parte descrittiva dell'esperienza che ha fatto. Now, the last point, as mentioned in this study, is not to judge one's own experiences. L'ultimo punto di questa ricerca parla della capacità di non giudicare le proprie esperienze. Not judge one's own experiences. Not to judge one's own experiences. Uno non giudica le proprie esperienze. Okay. Now, these are surely important aspects, and certainly you will have understood that in the Buddhist texts mindfulness gets explained in much greater detail. Questi quindi sono aspetti importanti. Avrete capito che nei testi buddhisti la consapevolezza è descritta, analizzata in gran dettaglio. Now, let me conclude this Dhamma talk by wishing fully understanding the many different qualities, aspects of mindfulness. May you make good use of it. May you apply it to whatever predominant object comes up in your sitting practice, walking practice, and during your general activities. May it contribute to the arising of concentration, and based on this, may more and more intuitive wisdom arise, and may in this eventually lead you to the peace of Nibbana. Allora, concluderò il discorso di Dhamma augurando che voi possiate comprendere bene le caratteristiche e la qualità della consapevolezza, che voi possiate farne un buon uso nell'osservare tutti gli oggetti che sorgono nella vostra meditazione. E grazie a questo è che voi possiate attraverso questo sviluppare la concentrazione e in virtù della maggior concentrazione avere delle conoscenze intuitive più, sempre più profonde e questo possa condurvi alla pace del Nibbana. Thank you.